Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Eclettica, come tutti i giorni con Giulio Caperdoni fra le 19 e le 20, il tutto disponibile anche in podcasting. Eclettica, composta di musica, di letture, sono diversi gli autori che sto leggendo questa settimana, e di sprazzi cinematografici. È solo un film quello che stiamo ascoltando durante tutti i 5 giorni della settimana in corso. Eclettica che non solo è per voi, ma eclettica che è fatta da voi. Vado a leggere quello che mi ha scritto Robert, mail che mi è arrivato qualche giorno fa. Ciao Giulio, sensazione stranissima ascoltare le mie parole pronunciate da te ieri sera in trasmissione. Non ero per niente in imbarazzo, mi è piaciuto un sacco e adesso non riesco più a farne a meno. Addicted. Mi permetto di usare il plurale. Siamo dei grandi. Tutto questo a giulio@radiorockfm.com. Adam Appleby aveva la sfortuna, nel momento stesso in cui si svegliava dal sonno, di sentirsi inondare la coscienza da tutte quelle cose a cui meno desiderava pensare. Altri uomini, ragionava, accoglievano ogni nuova alba con la mente e il cuore ristorati, pieni di ottimismo e determinazione. Oppure si muovevano pigramente durante le prime ore del giorno, in uno stato di beato intorpidimento, incapaci di qualsiasi pensiero, sia piacevole sia spiacevole. Attorno al suo letto, invece, appollaiati come arpie, i pensieri spiacevoli aspettavano di balzargli addosso al primo sbattere di ciglia. E immediatamente lui si sentiva costretto, come un uomo sul punto di annegare, a rivedere in un istante la sua intera vita, diviso tra il rammarico per il passato e i timori per il futuro. Questo era l'incipit di È crollato il British Museum di David Lodge. And you'll feed the living.

Tempo fa avevo ricevuto un semplicissimo mail intitolato Grazie, scritto da Anto. Ti scrivo più che altro per ringraziarti dei Misophone. La loro musica è una gemma. Grazie per avermela fatta scoprire. E la musica dei Misophone è quella che si è appena chiusa, The Sea Has Spoken. Prima ancora invece era stata la volta dei Cloud Cult, uno dei nomi nuovi presenti in Eclettica da settimana scorsa e che penso ci rimarrà a lungo. When Water Comes to Life, questo è il titolo del pezzo. Come immagino rimarrà a lungo anche questa Don't You Worry che sta per arrivare da parte di Jim Noir. Jim Noir che non è nient'altro che uno pseudonimo, dietro cui si nasconde Alan Roberts. Lui viene dalle parti di Manchester, non proprio dalla città ma dai villaggi attorno alla città. Ha già inciso un album che mi è sfuggito nel 2005, Tower Love, e dopo quello una serie di EP. Ora sta per uscire, per la precisione, l'8 di aprile per Bursack con un album omonimo, come se fosse quasi un esordio, Jim Noir appunto, dal quale vado ad estrarre la canzone di cui già vi ho detto il titolo, ma che comunque vi ripeto, Don't You Worry. Northwestern world. In alto, molto al di sopra del Polo Nord, il 1 gennaio 1969, due professori di letteratura inglese si dirigevano l'uno verso l'altro, alla velocità combinata di 1200 miglia all'ora. La cabina pressurizzata dei due Boeing 707 li proteggeva dall'aria rarefatta e fredda, e la prudente sistemazione delle rotte aeree internazionali li salvaguardava dal rischio di collisione. Benché non si fossero mai incontrati, i due uomini si conoscevano di nome. In effetti erano in procinto di scambiarsi i relativi posti di lavoro per i successivi 6 mesi e, in un'epoca di spostamenti meno frenetici, l'incrociarsi delle rispettive strade avrebbe potuto essere sottolineato da un simpatico gesto umano. Questo era l'incipit di Scambi, di David Lodge. Let's go dancing in the street. Come on, watch it on TV. Same pictures of the sea. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing in the street. Come on, watch it on TV. Same pictures of the sea. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing in the street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Cooking my brain on the beach. For me, let's go dancing in the street. Come and watch it on TV. Same old pictures of the sea. Cooking my my brain on the beach. Let's go dancing in the street. Come on, watch it on TV. Same old pictures of the sea. Kicking my brain on the beach. Let's go dancing in the... Da Ivrea erano i Drink to Me, album registrato in Inghilterra, dal quale ho estratto Dancing on TV, prima ancora Say Hi con Northwestern Girls, ed ora invece un esordio che arriva dalla città di Boston a chiudere la prima parte di Eclettica, un esordio che arriva da un sestetto di nome Hallelujah the Hills, esordio che si intitola Collective Psychosis Begun e dal quale vado ad estrarre il pezzo, intitolato Nurses 5 Float Past. Memory you let go, not the stimuli of the ghost, injecting opera into the corridor of the Queen's latest estate. And so you slip on past the bazaar, troubles deal away thus far. I'm not so criminal in a cathedral, you remark as the blimps fade away. Is this an epilogue, dark as, while the nurses five float past? We'd like to regulate, but not aggravate, and bring this dance to a close. And while you sit and think about that, something invisible